Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Una strage di donne per mano di mariti, compagni e fidanzati violenti. Ogni volta è una morte annunciata perché spesso, prima del gesto estremo, lui è ripetutamente aggressivo, geloso, ossessivo. Diventa lo stalker che non dà tregua alla propria donna. Ecco perché per rafforzare la lotta ai reati sentinella e tentare di arginare il femminicidio si pensa di introdurre il braccialetto elettronico per chi sia stato allontanato dalla casa familiare per maltrattamenti. Il giudice può quindi disporre l'utilizzo del braccialetto elettronico come mezzo di controllo previo consenso dell'imputato. Siamo sull'onda emotiva comunque della violenza fisica e psicologica sulle donne per i fatti di Colonia, ma l'argomento di cui vogliamo parlare questa mattina è un pochino più legato, anzi sicuramente più legato alla nostra realtà nazionale. Con grande clamore e grande senso di approvazione, nel 2013 il Parlamento ha approvato la cosiddetta legge sul femminicidio, tra cui entravano a far parte dell'essere considerati reati alcuni comportamenti che in realtà erano più difficili da stabilire prima di questa legge, tra cui anche quello dello stalking, cioè della persecuzione soprattutto in maggior parte, anzi in parte precipua, la parte di ex fidanzati, ex mariti, ex amanti, ex compagni nei confronti delle donne. Persecuzione che può avvenire attraverso varie forme, alcune apparentemente più lievi ma altrettanto lesive, altre più ossessive, arrivare alla fine al fatidico incontro chiarificatore, poi si risolveva molte volte in una violenza fisica molto più grave, se non in un vero e proprio omicidio. Ora, dal 2013, al di là degli aspetti legislativi, mancava qualcosa di concreto che desse un segnale concreto, che comunque c'era reale attenzione nei confronti delle donne vittime di stalker. Finalmente pare che fosse soltanto un problema di denaro, sono stati trovati i soldi e la prima soluzione sembra di tipo tecnologico, il cosiddetto braccialetto anti-stalker, che finalmente è stato finanziato, quindi esiste, ho davanti la foto, è una sorta di orologino, sembra uno smartwatch, è un piccolo apparecchio, sembra un walkie-talkie, una sorta di telefonino, uno se lo mette la vittima, uno se lo mette il persecutore, però il persecutore individuato e sanzionato dalla legge, quindi deve essere volontario, infatti la sperimentazione inizierà con 25 coppie volontarie, e questo determina che se il persecutore si avvicina a una distanza oltre quella di sicurezza, mi sembra 2 chilometri, alla vittima, viene avvertita sia la polizia sia la persona vittima si accorge che il suo persecutore è vicino a lei. Ora, i meccanismi per cui questo dispositivo entrerà in una sperimentazione volontaria sono che naturalmente il persecutore, che è già soggetto a un procedimento penale, accettando questo tipo di meccanismo di metterselo addosso, in qualche maniera evita un acuirsi la pena, probabilmente anche un atteggiamento, può usufruire di un atteggiamento forse di maggiore indulgenza da parte di chi l'ha sanzionato. La vittima è avvertita a tempo reale se questo si avvicina, quindi vive una vita più tranquilla, non immagina, non ha sempre l'ansia che dietro l'angolo, fuori del parcheggio, sotto al portone ci sia la persona che è oggetto della sua ossessione. Le forze di polizia sono avvertite in tempo reale. Quali sono, diciamo, gli elementi che vorrei portare come riflessione in questa puntata con persone che conoscono la materia? La violenza oggi avviene soltanto in uno spazio fisico misurabile, cioè lo stalker agisce soltanto con una distanza ravvicinata alla vittima, come appunto dice il sindaco di Colonia, è sufficiente stare a un braccio di distanza allo stalker, o non può esserci una forma pressante di violenza che avvenga, ad esempio attraverso i sistemi informatici, i mezzi informatici, che sono quelli che maggiormente molte volte si prestano a questo tipo di pressione. Seconda cosa, può esserci una sorta di malcostume generalizzato che nasce da una coscienza atavica, retriva, mai repressa attraverso le leggi, attraverso i regolamenti, di supremazia dell'uomo sulla donna, anche sulle decisioni di una donna di tenerlo a distanza, di interrompere un rapporto. Ecco, è sufficiente la soluzione di tipo tecnologico, di tipo elettronico, il bracciale per gli stalker. Poi altra domanda che mi faccio io, chissà perché il braccialetto anti-stalker, ci sono voluti 3 anni a metterlo su campo, i braccialetti che hanno stati acquistati in grandissima quantità dal Ministero degli Interni, appunto per metterli addosso alle persone che potevano usufruire così di arresti domiciliari, non sono mai stati usati, non so perché, non potevano essere lo stesso tipo di braccialetto. 800 24 00 24, ci sentiamo tra un istante dopo il traffico. Melog, cronache meridiane. Quando ricevi 30 messaggi al giorno e in questi messaggi il contenuto è oggi non ti ho vista, raggio di sole, luce dei miei occhi, vita mia, ragione della mia esistenza, e le mie amiche mi dicevano che era bello avere una persona che mi prestava così tante attenzioni, anche perché lui davanti alle altre persone, davanti ai nostri amici, davanti ai colleghi dell'università non si è mai fatto vedere per quello che era. Lui era sempre molto dolce, molto carino con le mie amiche, anche con me davanti a loro, davanti ai nostri colleghi. Dal tono della voce si capisce che questa donna è tutt'altro che lusingata dai messaggi di attenzione, d'amore, di dichiarazione di indispensabilità della sua esistenza da parte di un uomo che evidentemente la tartassava in maniera pressante. Per lei era una tortura, era un incubo. Certo, è difficile dal punto di vista maschile poi centellinare quando in realtà è vera passione, è vero amore, è vera dedizione nei confronti di una donna, e quando si supera il limite e questa passione entra in un'area patologica. È chiaro che le amiche, abituate a sentirsi trattare a pesci in faccia, magari da amici, compagni che non avrebbero mai alzato un dito su loro, dice: ma beata te che ti manda dei messaggi così belli. Ma l'apparenza molte volte inganna quando dietro c'è un discorso di persecuzione. Oggi però vogliamo parlare di questo oggetto che verrà applicato, non può essere imposto, in via volontaria a 25 coppie, per vedere se funziona, se lo stalker, quando ha un sistema elettronico in qualche maniera frena il suo istinto di perseguitare una persona, in qualche maniera questo funziona. Già nell'accettare di mettersi il braccialetto, secondo me c'è un'idea di essere usciti al di fuori della propria patologia, perché ci si rende conto che la cosa non funziona, non va. È come un alcolista che rincorre la bottiglia, sa che gli fa male, ma già dal momento che decide di abbandonarla o di prendere le distanze, già è un passo avanti rispetto ad uscire dalla sua dipendenza. Avvocato Lorenzo Puglisi, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. L'avvocato Puglisi è presidente dell'associazione SOS Stalking, è il primo sportello telematico in Italia che è in grado di offrire una consulenza diretta e immediata, sia legale che psicologica, alle vittime dello stalking. Come vedete voi innanzitutto l'idea del braccialetto anti-stalker? Ma allora, noi la vediamo molto positivamente, se non altro perché ci confrontiamo con altre esperienze europee, e in Inghilterra ad esempio, dove è già in uso da parecchi anni, i risultati ci sono stati in maniera abbastanza vistosa. Consideri che in Inghilterra sono già in uso circa 19.000 braccialetti e si è avvertita una riduzione sensibile dei reati legati agli atti persecutori. Consideri una cosa, che nel 50% dei femminicidi o delle violenze sessuali la condotta che ha anticipato l'epilogo tragico è sempre stata quella dello stalking, per cui almeno nel 50% di queste casistiche, se si fosse intervenuti per tempo, si sarebbe potuto evitare l'epilogo drammatico. Per cui è evidente che il fatto di andare a interrompere quel nesso di causalità tra stalking, femminicidio, stalking e violenza sessuale può fare oggettivamente... Diciamo, taglia la punta più estrema di quello che è una persecuzione, cioè evita il contatto fisico, che già mi sembra tantissimo. Assolutamente sì. Non evita naturalmente il proseguire delle attività, diciamo, informatiche, telematiche, grafomani e via dicendo, quello esatto. No. Esatto. Allora, io prima sentivo parlare di patologia e lei ha colto perfettamente un punto che vale la pena approfondire, nel senso che molto spesso chi pone in essere atti persecutori è affetto da delle fragilità psicologiche tali da non avere freni inibitori, da sviluppare quindi una forma di dipendenza affettiva nei confronti di una vittima tale da non riuscire a imporsi un autocontrollo. Cosa accade spesso? Che ci sono condanne, quindi sentenze di condanna, ci sono misure afflittive, ma ciò nonostante la condotta prosegue. Perché prosegue? Perché manca ancora oggi un protocollo d'intesa con le ASL o con i consultori di zona che imponga dei percorsi di riabilitazione di questi soggetti, perché non stiamo parlando soltanto di semplici criminali, stiamo parlando di persone criminali in una buona percentuale affette da una psicopatologia. Ecco, ma esiste, diciamo, uno staff di specialisti nel nostro paese che sa affrontarlo con strumenti scientifici e lavorare su questo? Manca il protocollo, nel senso che non è applicato, o non c'è chi si occupa di questo, a parte voi probabilmente? Diciamo che non esiste ancora una specializzazione, esistono tanti sportelli che sono stati aperti anche presso molti ospedali su tutta la penisola, ma a livello ufficiale non esiste ancora un protocollo da applicarsi. Ma chi è un neuropsichiatra se ne deve occupare a un certo punto? Sì, ma il punto non è solo chi se ne deve occupare, ma è come imporlo al soggetto, perché attualmente a prescindere dal DSO, che non riguarda comunque casistiche come queste, ha ammesso casi più gravi di schizofrenia o comunque di problemi come bipolarismo grave eccetera, ma molto spesso non è applicabile. Quindi a questo punto, d'accordo, abbiamo uno stalker che magari va agli arresti domiciliari o nei casi più gravi va in carcere, ma poi quando esce cosa succede? Che basta una scintilla, basta magari risentire la voce di quella persona, incontrarla per strada per caso, guardarla su internet, per fare emergere totalmente di nuovo questa pulsione verso la ricerca di questa persona. Se lui non si rende conto che è uno stato patologico, in realtà per lui diventa perfettamente normale. Sono gli altri a non capire il suo amore, la sua passione, questo qua, evidentemente. E questo è uno dei motivi per cui noi è da anni che ci stiamo battendo per integrare il testo di legge, che già oggi presenta delle peculiarità che lo rendono sicuramente una buona legge, anche rispetto a quella originaria del 2009 ci sono stati degli interventi anche l'anno scorso, per cui qualcosa si è fatto. Manca, ecco, quest'ultimo pezzo, cioè il fatto di garantire una rieducazione e una cura del reo. No, è importante questo che mi ha detto l'avvocato, perché conferma quello che era un po' la mia idea. Non si pensi che la soluzione informatica diventa la soluzione al problema, diciamo, argina gli aspetti più drammatici dello stalking, che appunto sono quelli che implicano un contatto fisico devastante con la vittima. Poi, per carità, noi siamo assolutamente dell'idea che il braccialetto elettronico vada applicato nel più breve tempo possibile. Adesso voi avete già menzionato alcuni dei problemi che lo hanno riguardato, consideri che dal 2001 che se ne parla e dal 2001 che lo Stato ha affittato le reti Telecom a dei prezzi esorbitanti, circa una decina di milioni di euro all'anno. Cioè stanno pagando, diciamo, la banda senza che ci siano i braccialetti per occupare. Esattamente, ma dal 2001, per cui dal 2001 al 2011 si sono pagati 100 milioni di euro inutilmente. Parlo del 2011 perché è l'anno da cui si è iniziato ad utilizzare questo strumento. Oggi consideri che ce ne sono in uso circa 1600 a fronte dei 2000 che erano stati ordinati originariamente, ma la richiesta corrisponde circa 11.000 unità, quindi capisce bene che tra 2000 e 11.000 c'è una differenza enorme, e oggi i nostri magistrati si trovano anche in difficoltà. Perché non so se adesso. Fermiamoci un secondo, avvocato, non vorrei mettere troppa carne a fuoco. Innanzitutto do il numero 800240024, piacerebbe avere dall'esperienza diretta delle nostre ascoltatrici soprattutto, ma anche dai nostri ascoltatori, se sono stati in qualche maniera protagonisti di un episodio di stalking, secondo voi questa potrebbe essere una soluzione, o se avete mai pensato che nella vostra situazione il braccialetto elettronico potesse rappresentare comunque un elemento migliorativo. Sentiamo Doriana. Doriana, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti. Sento, io non vorrei, come dire, fare la guastafeste, tuttavia a me sembra che questo provvedimento sia pari a quelli che asfaltano, si limitano a ricoprire una buca in mezzo alla strada senza asfaltare di fatto la strada. Il braccialetto elettronico è di fatto un elettroshock propinato ad un malato di mente che viene poi relegato nell'angolino. Manca a monte tutto il resto. Ora io lei parla per una sua esperienza, Doriana? No, io non ho per fortuna esperienza diretta, però sono comunque una donna attenta a certe come dire problematiche, sono una donna che si informa. Io ritengo, e soprattutto sono una donna che ha due figli e due bambini, ai quali insegno fortemente proprio la cultura, non semplicemente che è già è tanto del rispetto della donna quanto del rispetto della vita in termini proprio assoluti, assolutamente laici. Ora, lei pensa che hanno provato a farlo nelle scuole italiane qualcosa del genere, è scoppiata la battaglia sulla presunta filosofia gender non avendo capito nulla? Una montatura ridicola, eccetera eccetera, quella è un'altra roba che non sta no, per far capire però il nostro livello di percezione di alcuni problemi. Sì, ma perché c'è proprio disinformazione, c'è mancanza proprio di un'informazione quantomeno corretta. Io non dico di cattiva informazione, ma sicuramente da qualche parte. Io in questa cosa del braccialetto elettronico non riesco a non vedere, come dire, una montata un po' anche propagandistica, perché se intervieni sul braccialetto elettronico, per carità, a tutela di tante donne che sono probabilmente, come dire, braccate da questi malati di mente, anche è vero che però devi intervenire nelle scuole, devi intervenire nei consultori. Sì, questo ci sta tutto, Doriana, l'abbiamo già detto, però facciamo, lo domando un attimo all'avvocato Puglisi, quante donne si sarebbero salvate la vita se negli ultimi 10 anni ci fossero già stati i braccialetti elettronici, avvocato? Beh, consideri che in media in Italia si verifica un femminicidio ogni 2 giorni e mezzo e in almeno il 50% di questi femminicidi l'attività è stata preceduta dallo stalking, per cui è chiaro che non tutte le casistiche si sarebbero potute salvare, ma sicuramente una buona parte, anche soltanto se consideriamo un 30% significa circa 40 donne all'anno che sarebbero potute essere salvate, insomma. Non mi sembra indifferente di fronte al fatto che siamo d'accordo che tutto questo può inserirsi in un più ampio discorso di cultura, di propaganda nelle scuole, di insegnamento. Però vede come hanno provato le scuole italiane a fare un minimo di discorso approfondito che vada oltre la banalissima ma sempre importante educazione civica sul rispetto della donna, delle minoranze, sono alzati subito le croci e i vessilli di quelli che dicono: ah, cosa volete condurre i nostri figli verso la strada della mancanza di identificazione di genere? Non si è capito assolutamente nulla, è molto difficile, molto radicato il problema. Massimo Lattanzi, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Massimo Lattanzi, anche lui si occupa di stalker, è uno psicologo, uno psicoterapeuta, è fondatore dell'Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia, coordinatore dell'Osservatorio Nazionale sullo Stalking, anche lui è un osservatorio. Il punto di vista dal suo osservatorio, la nostra ascoltatrice poneva il problema, cioè è semplicemente un intervento di facciata, come asfaltare le strade solo col catrame per favorire pochi nuovamente di rifare quel tipo di lavoro, ma siete convinti anche voi che questa cosa serva poco o in realtà è soltanto un punto di partenza su poi applicare altri interventi più legati comunque alla coscienza civile, all'educazione dei ragazzi e via dicendo? Beh, diciamo che ogni strumento non può essere disfattista a priori, speriamo che possa prevenire prima di tutto agiti più gravi che spesso purtroppo avvengono a seguito di violenza, persecuzione o stalking. Diciamo che dalla nostra esperienza, per esempio in questo momento, se posso permettermi di dirlo, siamo qui al carcere di Rebibbia, questo è il quinto anno che noi operiamo nel braccio dei sex offender, degli offender, dove facciamo dei gruppi e dei colloqui individuali. Questo è molto importante, ecco, spiegami questo, perché si pongono gli ascoltatori il problema dicendo: ma com'è possibile che debba essere una cosa su base volontaria, deve essere imposta? Lattanzi si occupa della parte, diciamo, più del lato scuro della forza. Sì, esatto. Lui si occupa proprio degli stalker e sì. Cerca di in qualche maniera di trovare delle vie d'entrata nella psiche di queste persone per fargli comprendere e capire che loro è uno stato patologico. Però ci fermiamo solo un istante, Lattanzi, a dare la linea per le informazioni del traffico, pubblicità, non ho capito bene cosa, e fra un istante ci sentiamo con te. Melog, cronache meridiane. Per cui me lo trovavo continuamente dappertutto, all'entrata di scuola del bambino e dopo un quarto d'ora all'entrata dell'ufficio, all'ora della pausa pranzo fuori dall'ufficio, all'ora del rientro dalla pausa pranzo davanti all'ufficio, all'ora di uscita dall'ufficio. Andavo a scuola, quindi davanti alla scuola del bambino, al parco con gli amici di mio figlio, e al parco c'era anche lui, davanti a casa la sera, fino a che finalmente entravo nella mia roccaforte, perché la casa per me a quel punto diventava il mio rifugio. 800 24 0024, questa testimonianza tanto per far capire che non è mandare qualche messaggino d'amore o essere sollecito nel dichiararsi dipendente amoroso di una persona, è qualcosa di ben diverso, entriamo in un comportamento ossessivo ma anche pericoloso. Rita, buongiorno. Buongiorno. Senta, io ho ascoltato con molta attenzione la vostra trasmissione e cioè, mi permetto di esternarvi una riflessione che ho fatto. Sui braccialetti è sicuramente un intervento che può dare i suoi frutti, ma mi veniva in mente invece un discorso, diciamo così, più di prevenzione che non di cura. E pensavo all'utilità che potrebbe avere per i ragazzi, diciamo, una riflessione, naturalmente guidata dal docente che è competente su questo argomento, che parta da come sono a certa età, cioè quali sono le loro esigenze per rinforzare la loro autostima attraverso il primo compagno, il primo partner, eccetera, e quindi partendo dai loro bisogni arrivare a capire qual è il momento in cui il rapporto diventa stretto. Sì, però Rita, vuol dire, l'abbiamo già detto, è perfetto, siamo tutti d'accordo. Una volta tanto che in Italia il MIUR ha messo in atto una campagna nelle scuole proprio mirata a questo, a smussare gli aspetti più crudi del machismo, aver comprensione per i compagni che non mostravano una spregiudicatezza tale da essere considerati dei vincenti, aver rispetto delle proprie compagne e non considerarle soltanto come degli oggetti, era stata fatta, era stata pensata, è stata distorta questa campagna con una propaganda orribile dicendo che era una campagna fatta semplicemente per sdoganare il fatto che non esistesse più un'identità di genere. Insomma, la paura dell'infinocchimento di tutti i nostri ragazzi, questo è stato lo spettro che ancora circola in tante madri in una maniera veramente scellerata. Quindi vede, l'intento c'è stato di farlo, ma è stato immediatamente bloccato, frustrato e fuorviato verso una lettura politica, secondo me non era assolutamente coerente rispetto a quello che era l'intenzione. Ne abbiamo parlato più volte, mi ero interrotto, grazie comunque, con Massimo Lattanzi, ricordo, psicologo e psicoterapeuta, che mi sembra che ci chiami proprio dare Bibbia. Lattanzi si occupa proprio di stalker, di persone che compiono o hanno compiuto o stanno compiendo questo tipo di attività. Sì, beh, in questo caso che stanno scontando una pena. Stanno scontando una pena per averla compiuto, sì. Sì, la violenza. Ma spesso sono recidivi quando escono? Purtroppo sì, infatti il nostro lavoro con la collega, la dottoressa Tiziana Calzone, che siamo da quasi 5 anni qui nel braccio G9 dei sex offender, dove appunto questo braccio accoglie tutte le persone che hanno commesso tutte le forme di violenza, da quella psicologica, fisica, sessuale e a tutti i tipi di stalking. È un braccio di sicurezza perché in realtà diciamo nelle leggi non scritte del carcere sono quelli poi sottoposti a altrettanta violenza da parte degli altri, sì, perché vengono considerati dei reati non accettabili nemmeno per persone, quindi insieme diciamo agli stupratori, ai pedofili, stanno allo stesso braccio? Esattamente. Non è una bella, questo è bene che si sa, perché non è proprio una bella storia per chi pensa che questo sia un reato non punito. Si va a finire nello stesso braccio in cui stanno persone che hanno compiuto crimini orribili. Se mi perdoni, non voglio etichettare nessuno, ma c'è molta ignoranza in questo ambito, perché si parla di tantissime cose, ma diciamo che siamo al centro. Noi lavoriamo con l'altra faccia, come dicevi te, il lato scuro, tra virgolette, ma che siamo a metà, perché non dimentichiamo che gli atti persecutori, stalking, così come è coniato a livello internazionale, riguarda tutte le relazioni, quindi si è almeno in due, se non in più di due persone. Quindi io vorrei che i vostri ascoltatori, i nostri ascoltatori possano comprendere questo. Faccio capire, dai, spiegaci bene. Nel senso che forse nel 50% circa di casi riguarda partner o ex partner, gli atti persecutori riguardano appunto una relazione affettivo-sentimentale, ma nell'altro 50%, come più volte grazie a voi abbiamo già detto nella trasmissione, riguarda le relazioni interpersonali tipo compagni di classe, compagni di scuola, compagni di lavoro, piuttosto che vicini di casa, piuttosto che la famiglia. Quello che, quello che definiamo mobbing o che definiamo bullismo, anche questi casi rientrano poi, diciamo, da un punto di vista processuale. La nostra esperienza ci dice che noi creiamo dei contenitori, dei grandi contenitori, creiamo delle etichette, ma spesso se andassimo a studiare meglio i casi, sia sul posto di lavoro, che a scuola, che in famiglia, noi leggeremmo, se fossimo più attenti e meno diciamo carichi di preconcetti e pregiudizi, vedremmo anche degli atti persecutori in questi contesti di relazioni interpersonali. Ecco, vediamo se, però questo è molto importante, non si finisce mai di apprendere, anche quando noi siamo convinti di sapere tutto riguardo ogni tipo di problematica, c'è sempre qualcuno che poi ti batte sulla spalla e dice: questo non l'hai capito. È accaduto a me giorni fa, ho intervistato una signora nell'altra trasmissione del Trenova, che parlava del marito che aveva cambiato sesso. Sono stato bacchettato da una serie di organizzazioni perché parlavo di questa persona parlandone come marito, quando in realtà aveva cambiato sesso, quindi ormai era una donna a tutti gli effetti. Li chiamerò perché mi spieghino bene un settore in cui probabilmente ho carenza anch'io di informazione. Ma detto questo, vorrei sapere dall'avvocato Lorenzo Puglisi quando una persona comincia a essere considerato stalker, cioè quando entra in quell'area in cui potrebbe mettersi il braccialetto, quando c'è una sentenza, quando è stato condannato, quando semplicemente un giudice gli dice di stare lontano da questa persona. Ma allora, intanto il braccialetto è considerato una misura alternativa al carcere, utilizzabile sia per la detenzione sia nel caso di arresti domiciliari, quindi sia che ci sia già stata una sentenza definitiva di condanna, sia che si stia in qualche modo applicando una misura cautelare come l'arresto domiciliare. Diciamo che in base alle ultime recenti sentenze della Cassazione è sufficiente per integrare gli atti persecutori una duplice molestia, cioè almeno due molestie reiterate nel tempo. Nonostante poi è chiaro che nella pratica di tutti i giorni due molestie, a meno che non siano due molestie gravi, difficilmente potrebbero mettere in moto la macchina della giustizia, perché purtroppo noi addetti ai lavori sappiamo che prima di verificare un intervento realmente coattivo da parte dello Stato, si necessita di una condotta ben più grave di solo due eventi. Sì, anche perché purtroppo, avvocato, leggiamo nelle cronache, quando vediamo l'ennesimo caso di amante, marito, compagno, accompagnatore che uccide la donna, che l'ha rifiutato, che l'ha abbandonato, c'era stato già segnalato e denunciato, però non era successo nulla. Assolutamente no, ma noi abbiamo assistito anche a casi in cui erano state fatte 30 denunce e nulla era stato fatto, per cui questo purtroppo è quello che accadeva fino a un po' di tempo fa. Perché utilizzo il passato? Perché ad oggi, almeno in alcuni centri, io parlo ad esempio per Milano, c'è un approccio diverso, ci sono dei nuclei specializzati di polizia che hanno anche accorciato molto i tempi di risposta, nel senso che a Milano, io parlo ad esempio per il nucleo tutela donne e minori di Niguarda, il commissariato è molto attivo attivo e molto attento a questi temi, per cui abbiamo assistito a casi in cui l'arresto è avvenuto in pochi giorni, il che corrisponde a fantascienza se lo confrontiamo rispetto all'esperienza di qualche anno fa. Sì, quando il maresciallo dice ma no, torna a casa, dai, stai tranquillo, è un buon uomo. Abbiamo fatto varie trasmissioni, alla fine questi erano i temi ricorrenti. Sì, ho fatto denuncia, ma soprattutto nei piccoli centri dove si conoscono tutti, mi hanno detto ma no, dai, non ci far caso, vedrai che poi capirà, cose del genere. Ecco, su questo almeno c'è maggior rigore e questo ci conforta. Paola, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, sempre lucido e coraggioso. Allora, volevo sapere se... Finché ce la facciamo, che mica dura in eterno la lucidità. Allora, volevo sapere se dalle persone che sono lì intervenute, più tecnici, più che lavorano sul tema, ci sono delle statistiche per sapere quante sono le donne ammazzate dai propri partner e quanti sono gli uomini ammazzati dalle loro ex, e anche all'interno degli stalker, se la percentuale è così chiaramente disuguale, chiaramente è forse la teoria che non tutti gli stupratori, non tutti i maschi sono stupratori, ma tutti gli stupratori sono maschi, forse ha una qualche, bisognerà fare anche una riflessione. Cioè, devo dire, colpa anche delle donne, anche loro, sì, le donne, che donne persecutrici possano essere. Vediamo se ci risponde o Puglisi o Lattanzio, entrambi, Puglisi, su quante sono le donne stalker, visto che è un tema ricorrente, molti dicono ci sono anche le donne, sì, allora, senza, però sono meno gravi quando menano, perché un uomo si sa difendere meglio, se vogliamo proprio dirla. Allora, io posso dirle che da un lato c'è anche un pregiudizio al contrario, nel senso che le spiego, l'Istat parla di un 30% di vittime maschili per quanto riguarda gli atti persecutori, è anche vero, e lo ha assistito in prima persona, che molto spesso se è un uomo a denunciare, la risposta da parte delle forze dell'ordine è molto più blanda. E gli ridono in faccia, dice ma dai, su, che uomo sei? Allora, io posso dire che ho assistito una persona che addirittura si è trovato la propria stalker, che era una ex fidanzata, nell'armadio di notte dopo che si era clonata le chiavi di casa per entrare nell'appartamento. Ecco, nonostante questa fosse salita su un cornicione per buttarsi giù, nonostante le migliaia di telefonate che erano state fatte, a distanza di un anno e mezzo non era stato fatto nulla in fase di indagine, neppure l'applicazione di un divieto di avvicinamento o di contatto con questa persona. Sì, perché sembra nel paradosso sembra meno grave, ma viene in mente un film che fece molto parlare negli Stati Uniti, Attrazione, certo, fatale, aveva diciamo l'intento di far capire che l'adulterio poteva portare a danni gravissimi, ma era terrificante. Questo aveva questa donna con cui ha avuto una brevissima relazione, se la ritrovava dappertutto, alla fine prova a strangolarla, la soffoca nella vasca da bagno, tanto riesce fuori con il coltello in mano, era un incubo, per far capire che anche le donne sono capaci di queste azioni, questo senz'altro. Ma il braccialetto in questo caso potrebbe applicarsi anche a donne? La faccio la domanda stupida, ma... Tecnicamente sì, poi ovviamente il braccialetto non si applicherà soltanto per gli atti persecutori, attenzione, per cui anche per altre tipologie di reati che magari sono anche più affini rispetto all'indole femminile, ecco. Consideri però che il braccialetto sarà unisex, per cui indipendentemente dal sesso si dovrebbe applicare sia agli uni che agli altri. Ma fermiamoci un istante, poi entriamo proprio nel merito, per quello che ne sapranno i nostri ospiti, su come avverrà questa sperimentazione, quando poi concretamente inizierà, e vedremo poi quali saranno i risultati anche nel nostro paese. A tra un istante. Melog, cronache meridiane. .800 24 0024, ci aspettiamo da voi, che ci comunichiate vostre esperienze sia come parte attiva come parte passiva in casi di stalking, e se considerate il braccialetto elettronico, che entrerà in sperimentazione in Italia tra pochissimo, un valido presidio comunque per arginare il fenomeno. All'avvocato Lorenzo Puglisi, che ricordo presidente associazione SOS Stalking, faccio la domanda che mi stanno ponendo via SMS la maggior parte degli ascoltatori: perché deve essere su base volontaria? Non può essere obbligato lo stalker a mettere il braccialetto? Beh, allora, su base volontaria, nel senso che è un'istanza che può... Anzi, allora, facciamo una precisazione. Lo stalker, volendo, potrebbe anche restare in carcere. Diciamo però che sono i magistrati che, applicando l'articolo 275 bis del codice di procedura penale introdotto a seguito del decreto svuota carceri dell'anno scorso... Diciamo che sono affollate le carceri, poi... Troviamo maniera per far uscire qualcuno, se col braccialetto... Il braccialetto elettronico sulla carta dovrebbe essere la regola generale, quindi l'ordinarietà. Il problema grosso oggi dei magistrati è quello di non riuscire a trovare motivazioni nel merito tali da giustificare il non utilizzo, perché in realtà la ratio sta nell'assenza di questo dispositivo, proprio per ragioni economiche, per cui quello è il vero problema. Poi parlare di sperimentazione oggi come oggi è forse anacronistico, perché in realtà la sperimentazione è già stata fatta. Da quanti anni è che ha detto in Inghilterra, avvocato? In Inghilterra dal 2008, ma in Italia già dal 2011 qualche braccialetto è in uso. Oggi stiamo parlando di 1600 unità, per cui... Perché allora bisogna sperimentarlo per gli stalker? Ma allora, probabilmente... 25 coppie, cosa servono questi 25 test per iniziare a usarlo? Probabilmente vogliono fare un monitoraggio attento al fenomeno, o meglio specificando... Mirato al tipo di rato, certo. Esattamente, ma non ne vedo altre peculiarità, insomma. Comunque, diciamo, su base obbligatoria potrebbe essere imposto in qualche maniera. Diciamo, non è una misura restrittiva di carcere, però visto che tu sei importuni in maniera reiterata questa persona, ti metti il braccialetto. Certo, assolutamente. Sentiamo Felice. Felice, buongiorno. Buongiorno. Io sono un medico dentista e ho avuto pure io questa esperienza negativa con una mia paziente. Ottima paziente, puntuale agli appuntamenti, la paziente perfetta. Però io alla mia assistente dicevo qualcosa di strano, cioè, visto che ormai l'esperienza, perché è una vita che faccio questo lavoro. Simulava cariche non c'erano? No, tutto tranquillo, tutto... Poi ho cominciato con dei messaggi così strani. E poi la cosa è degenerata, ormai si metteva fuori dallo studio a strillare, non veniva dentro lo studio e faceva delle piazzate allucinanti, tutto perché secondo la sua testa un'altra mia paziente, io avevo fatto un lavoro bellissimo e lei si riteneva più bella di lei, e quindi non so che le è scattato nella testa, e è arrivata a mandarmi... Dei pacchetti con degli slip sporchi, sempre con messaggi particolari. Beh, è un fenomeno, diciamo, esiste in psichiatria, si chiama erotomania, non è l'erotomane nel senso. Il problema è che io sono persone che allucinano una passione per persone che nemmeno le calcolano, è tutta la parte. Il problema è che io mi trovavo a fare denunce quotidiane e purtroppo non succedeva nulla. Io mi sono rivolto a un centro antistalker e mi hanno detto: se fosse stata una donna avremmo fatto qualcosa, per un uomo no. Cioè, io dico: ma fermo un attimo, Felice, resti in ascolto. Allora, Massimo Lattanzi, abbiamo una case history proprio che calza su quella che è la tua esperienza. Guarda, tu cosa avresti detto al dottor Felice con questo caso? Io mi permetto di indicare al dottor Felice il nostro numero, perché noi dal 2015 invece riceviamo essenzialmente richieste d'aiuto da parte di uomini. Sei semplicemente rivolto alle persone sbagliate, esiste questo tipo di assistenza? Assoluto, guardate, anche perché io... E quali strumenti ha Felice però in questo punto per intervenire? Poi vi mettiamo in contatto noi tramite segreteria. Gli strumenti previsti dalla legge, se posso permettermi, io vorrei che dal 2016 non si etichettasse assolutamente ancora lo stalking come un qualcosa di genere. Io mi permetto anche di rivolgermi a... No, beh, giusto, è senz'altro giusto. Che ha tantissima esperienza. Non esiste lo stalking in rosa, lo stalking in blu. Gli atti persecutori sono una legge dello Stato che deve tutelare tutti i cittadini italiani. Io vedo veramente anacronistico parlare ancora di uomini, donne che uccidono, uomini che uccidono. Sa di fatto, se ancora posso ritagliarmi... Ma è sacrosanto quello che stai dicendo. Che sia nel 2015 che nel 2016, senza etichettare, perché sennò poi io dico bene... Questo non deve togliere la gravità del fatto che esista un attteggiamento diffuso che l'uomo comunque... È padrone anche delle scelte sentimentali di una donna. Ma nessuna persona può esserlo, né uomo né donna. Io parliamo di persone. Però se vogliamo essere precisi, sono convinto che anche l'avvocato abbia questi dati in mano, sì. Nel 2015, nel 2016, ripeto, senza voler etichettare nessuno, è sempre stata la prima persona ad uccidere, è stata una donna, nel gennaio 2015 e nel gennaio 2016. Ripeto, questo non cambia la sostanza delle cose. però è giusto che si dica, perché come l'avvocato Felice e tante altre persone che chiamano il nostro centro dicono, fanno una discriminazione di genere sia i centri e a volte, anche se lavorano benissimo e sono molto preparati i rappresentanti delle forze dell'ordine, purtroppo è vero. Non c'è una tendenza, scusa se mi permetto, a sottostimare la gravità di una donna persecutrice. Sì, perché di solito, dove spesso sono maestre, le donne agiscono una violenza di tipo psicologico. E quasi sembrerebbe che se una persona non picchia un'altra persona o non violenta un'altra persona sessualmente non ha commesso una violenza, assolutamente no. Ma vediamo di confrontarci con l'avvocato Lorenzo Puglisi. Prego. Rispetto a quello che dice Lattanzi, il suo punto di vista, così. Io sono da un lato perfettamente d'accordo sulla, cioè, sulla sottostima che si dà del fenomeno, al contrario. C'è da dire una cosa però, attenzione, che i numeri restano comunque a favore delle donne, nel senso che stando alle rilevazioni dell'ultimo anno è emerso come comunque la maggior parte degli omicidi che sono stati suffragati in qualche modo da atti persecutori hanno avuto come vittime delle donne e non degli uomini. Attenzione, un altro concetto. Diciamo c'è un quadro criminoso che è ben definito. No, definito. Ma attenzione, ma perché molto spesso accade questo? Perché l'omicidio spesso è anche oggetto di una matrice culturale che ha portato a considerare la preda come un oggetto e basti. Cioè, adesso non è ancora purtroppo anacronistico pensare che in alcune zone in Italia la donna è ancora considerata un oggetto di proprietà dell'uomo. Per cui, diciamo che il delitto d'onore è scomparso dagli ordinamenti giuridici, ma è rimasto nella memoria genetica, esatto, di gran parte degli italiani. Se vogliamo parlare di un fenomeno psicopatologico legato a una dipendenza affettiva, sono perfettamente d'accordo con Lattanzi che non ha sesso, per cui sia uomini che donne ne sono affetti e quindi il fenomeno riguarda trasversalmente entrambi i generi. Se vogliamo parlare però di violenze consumate, allora a quel punto, stando almeno alle statistiche, le donne restano comunque nella stragrande maggioranza. Sentiamo Michele, buongiorno. Michele. Sento che mi passate la parola, vi ringrazio, complimenti per la trasmissione, eccetera, eccetera. E quello che è il dato, diciamo, sul quale bisogna riflettere rispetto alle garanzie di sicurezza sociale, quindi di protezione, è che probabilmente, ora io cito a memoria perché sono in macchina, ma probabilmente è più alto il numero delle donne che fanno stalking, ma l'esito dello stalking è differente rispetto alla violenza che può essere esercitata. Cioè, diciamo, gli uomini quando arrivano a uccidere, le donne possono massacrare psicologicamente le persone, esatto, però non arrivano a uccidere con tale frequenza in cui arrivano gli uomini, questo è il concetto. Esatto, esatto. Sì, quindi, mi sembra accettabile. È vero che le donne possono stalkizzare e probabilmente lo fanno più spesso degli uomini, ma l'esito è radicalmente differente e questo, rispetto alla psichiatria antropologica, è giustificato dalla diversità di comportamento derivante dagli ormoni. Sì, non giustifica l'uomo in realtà ha un pacco ormonale che lo porta a perdere nei momenti di estremo non controllo dei suoi istinti, di perdere la testa e fare queste cose, non perdere la testa, di comportarsi in maniera violenza. Riemerge l'animale che è dentro ognuno di noi. Felice, devo aggiungere qualcosa? Le daremo dopo l'indirizzo di Lattanzi che si è occupato di questo. No, adesso diciamo che sono avanti con la cosa, non mi serve. Allora, io mi sono rivolto in zona alla compagnia dei carabinieri di Montelibretti. Il comandante Fariello è stato splendido in quello che ha fatto. Quindi lui, per quello che lui poteva fare, ha ben fatto più di quello che doveva. Qui ha trovato un tutore della legge avanzato, sensibile anche a questo aspetto che sembra poco frequente. Perfetto in questa cosa. Il problema non sono loro, è il dopo. Nel senso che dopo che il soggetto, nel caso io, ho fatto una denuncia e sono andato svariate, innumerevoli volte e sono sempre stato accolto più che gentilmente e con la massima accoglienza, il problema è il dopo, che comunque sia, non è che ti posso... Se la trova sempre sotto lo studio questa, strillare. Il problema è stato quello... Ma ha una famiglia questa signora? Ha un marito, un padre, un fratello, qualcuno, una sorella? Non cambia nulla, il problema è che comunque... sei lasciato da solo, ma non perché giustamente non è che ti possono mettere una guardia del corpo. Sì, però sarebbe un caso da braccialetto, se lei accettasse di mettersi il braccialetto alla signora. Che signora, secondo allora, me... Adesso io ho iniziato una causa a distanza di 2 anni che si con i tempi... Ma è stata condannata? La signora è stata condannata? È iniziata, quindi ancora tutto da fare. Sta spostando. E nel frattempo il comportamento è rimasto uguale? Da circa 7-8 mesi, un anno, da quando si è andata avanti con la causa, si è fermata la cosa. Si è calmata. Però io per un anno e mezzo... Io sono stato tutti i santi giorni vittima di questa cosa e nessuno ti aiuta. Il giudice interverrà a distanza di 3 anni, quando io ormai il problema l'ho risolto. Sì, in 3 anni forse si è anche calmato. Comunque, Felice, il suo problema è stato esemplificativo di una categoria di persone di solito è esclusa da questi discorsi. Speriamo di aver dato per quanto possibile chiarezza anche su questo tema. Alla prossima.